Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. C'è chi proprio non riesce a lavorare per un'azienda, ma preferisce fare l'imprenditore perché se lo sente dentro. Ho di fronte a me Tommaso Baldissera, a cui do il benvenuto. Buongiorno Tommaso. Buongiorno Pepe. Il quale mi ha confessato che insomma lui dentro un'azienda non riuscirebbe proprio a entrarci perché fin da giovane, non è che adesso sia tanto meno giovane, anzi ha solo 32 anni, ma fin da giovane è sempre stato un imprenditore, preferito lavorare piuttosto che studiare. Tommaso, allora, CrowdFundMe è la tua seconda creatura dopo un'altra avventura imprenditoriale che è andata peraltro molto bene. Che cos'è CrowdFundMe? CrowdFundMe è un marketplace dove si incontra la domanda di capitali da parte di startup e PMI, in generale anche società proprio di capitale italiane, e la voglia di investitori italiani di andare a diversificare il proprio portafoglio investendo in società non quotate con un alto potenziale di crescita, andando a diversificare il proprio portafoglio e molto spesso usufruendo anche di incentivi fiscali importanti del 30% per andare a, insomma, di detrazione. Ricordo ai nostri ascoltatori che l'anno scorso avevamo intervistato Piercarlo Mansueto, che è l'amministratore delegato, il fondatore di Sharewood, la startup che è diventata poi un'azienda che è nata proprio grazie alla raccolta di fondi su CrowdFundMe. Ci racconti un attimo dal punto di vista della piattaforma come nascono questi imprenditori? Beh, prima di tutto mi sento vecchio perché all'epoca nel 2017 la raccolta di Piercarlo, di Sharewood in generale, era considerata la raccolta dei record. Parliamo di 250.000 euro, 200 rotti investitori. Nel 2017, quando eravamo ancora agli albori, era un ottimo risultato e un giornale la definì proprio la campagna dei record. E come nasce? Diciamo che c'è stata un'evoluzione. Inizialmente l'equity crowdfunding veniva visto un po' dagli operatori del settore come forse l'ultima spiaggia per raccogliere capitali. Dopo Family, Friends and Fools c'era il crowdfunding. Quello. In realtà già con Sharewood c'era stata un'evoluzione e si utilizzava l'equity crowdfunding non solo per la raccolta di capitali, ma anche per fare uno strumento di marketing. Uh-huh. E quindi capiamo che la finalità e quello che veniva considerata soltanto la raccolta di capitali diventava un'arma a doppio taglio per far conoscere il servizio, con certo. Sharewood, che è stato considerato l'Airbnb dell'attrezzatura sportiva, e ne è un esempio pazzesco di far conoscere il proprio servizio e, oltre che attirare capitali, anche download dell'applicazione, transazioni, e quindi far conoscere il proprio marchio. Il vostro modello di business si basa su una fee legata al capitale raccolto? Corretto. E dal vostro punto di vista, quali sono, dal tuo punto di vista privilegiato, quali sono oggi i settori che in questo momento stanno raccogliendo più fondi? Quali sono i mercati, le aree? Allora, per quello che riguarda la piattaforma, sicuramente quello che riguarda il green e l'ecosostenibile, uh-huh, diciamo che sono tematiche attuali anche ad Davos, certo, se vogliamo. E poi c'è anche, noi abbiamo fatto delle particolari raccolte di fondi per delle holding industriali, IRFK, ovvero affidare il proprio patrimonio a dei professionisti di comprovata esperienza, come appunto il RFK. Paolo Pescetto ha fatto una raccolta record, 2 milioni e mezzo di capitali raccolti, e questo secondo me sarà anche un po' il trend del momento. C'è in questo momento Bio Valley Investment Partner che sta raccogliendo, l'imprenditore, anche lì un imprenditore seriale, una bella storia perché l'ingegner Diego Bravar, che ha fatto una delle prime società quotate su Lime, Ital TBS, TBS Group, poi dopo delistata da Permira, oggi si reinventa andando a creare quello che è un polo tecnologico verticale sul biomedicale, uh-huh, e in raccolta su CrowdFundMe adesso in questo momento circa 2 milioni e 200 mila euro. Oggi di che numeri parliamo su CrowdFundMe? Quante startup o quante aziende lungo l'anno solare partecipano, comunque chiedono di fare raccolta? Allora, dal 2016 ad oggi, ovviamente sono numeri che sono cresciuti dal 2016, certo, al 2019, parliamo di 100 campagne, parliamo di 72 chiuse con successo, parliamo di circa 6.000 investitori, 10.000 investimenti, 23 milioni. Ovvio che sono numeri che si sono moltiplicati dal 2016. Tempo. Esatto, al 2019 è stato un anno pazzesco. Pazzesco anche l'inizio del 2020, adesso sono numeri assolutamente pubblici, si vedono direttamente dal portale. Stiamo raccogliendo a gennaio 2020 una media di circa 80.000 euro al giorno, quindi sono numeri che cominciano a diventare simpatici, ecco. Chi è l'investitore medio che partecipa a CrowdFundMe? Ti lascio tutte le banalità rispetto all'età anagrafica E no, io voglio capire per quale motivo viene su crowdfunding, non va invece dal promotore finanziario per dire c'ho 30.000 euro, 10.000, 50.000 in realtà, non è detto che non va dal promotore. È una diversificazione? Bravissimo. E il 12% dei nostri investitori dichiara di investire più di 200.000 euro negli ultimi 4 anni. Il 18% dichiara di investire più di 100.000 euro. Dall'altra parte però dello spettro, il 30% ci dichiara che negli ultimi 4 anni ha investito da 0 a 10.000 euro. Quindi verosimilmente non ha neanche un portafoglio titoli e con noi si avvicina la prima volta nel mondo della finanza, perché credo che riusciamo a vendere un prodotto empatico, far parte di una startup, di una PMI, parlare con l'amministratore, avere nel sogno nel cassetto che magari diventi la nuova Facebook e possibilmente che cambierà il mondo. Non la prossima Bion. Ma la persona che partecipa, che dà, come dire, il suo contributo, poi a che titolo partecipa alla vita dell'azienda? Allora, dipende, abbiamo diverse categorie di soci. Il governo del 2012, il governo Monti, con allora ministro Passera, che fece il decreto crescita 2.0, è andato a stabilire che per la prima volta che le società SRL potessero emettere azioni diversificate, quindi banalmente con o senza diritto di voto. Okay. E quindi, ad esempio, se io sono un investitore da 250-500 euro, magari non do diritto di voto per non intasare quella che è la governance della società. Se invece voglio investire 10, 15, 20 mila euro, io imprenditore, nell'aumento di capitale, deciderò che quel tipo di investitore, avendo apportato un capitale importante, diventa ha diritto di voto. Quindi resta fermo il fatto che tutti i soci hanno diritti patrimoniali, ma posso decidere a chi dare anche diritto di voto, comunque di governance. Quindi sono socio a tutti gli effetti iscritto in Camera di Commercio. Ecco, specifichiamo a chi fosse interessato e volesse andare ad approfondire anche sul sito di crowdfunding che questo è un capitale di rischio, per cui se l'azienda va bene, va molto bene, si guadagnerà tanto quanto l'azienda, ovviamente crescerà, ma l'azienda può anche chiudere. Allora, lo dico sempre, in confronto gli ETF, l'azionariato, anzi gli hedge fund sono considerati un BTP, no? È assolutamente uno strumento di rischio molto elevato, sì, vista ovviamente come dice anche la normativa Consob stessa, la diversificazione. Fatto un portafoglio ad esempio di 10.000, di 5.000, è meglio diversificare più su più emittenti in modo tale da non andare a concentrare il rischio soltanto, certo, su un'emittente sola. È vero anche che sono società che possono dare grandi soddisfazioni. Ovviamente il rischio va remunerato. Se devo fare un esempio concreto, nel 2019 al 25 luglio si è quotata Clean BNB, capitalizzazione in borsa 14 milioni, primo round di equity crowdfunding 500.000 euro. Quindi chi ha messo i soldi in quel round ha fatto per 30. Beh, ha fatto per 30, insomma, niente male. Anche fossero stati 500 euro, insomma, era un bel prendere. Assolutamente. Ovvio che ad oggi è un caso raro. Vogliamo ovviamente cercare di moltiplicare assolutamente questo casi. Tipo di... Senti, prima tu hai parlato della possibilità che una startup non raccolga quanto previsto. Quindi nel caso di quel 22%, tu hai parlato di 78% che ha raggiunto gli obiettivi, il 22%, quindi ovviamente per differenza non l'ha raggiunto. Chi ha versato il denaro per quel 22%? Se lo vede restituito? Stornato per intero. Okay. Durante il periodo della campagna i capitali vengono custoditi su un conto corrente indisponibile presso l'intermediario finanziario, sì, nel nostro caso è il banco BPM, e qualora la campagna non raggiunga il 100%, questo 100% viene scritto in delibera di aumento di capitale da un notaio, quindi insomma un atto notarile a tutti gli effetti, allora in quel caso c'è un'attività di storno, quindi addirittura senza costi, commissione del bonifico e tutto, vengono ristornati per intero all'investitore. Peraltro crowdfunding è anche quotata all'AIM, se non sbaglio, sì, no? Quando avete deciso di quotarvi? Abbiamo deciso di quotarci, ci siamo quotati a marzo del 2019, diciamo che l'iter è incominciato un anno prima. Senti, e se invece io fossi una startup, perché dovrei scegliere crowdfunding e non un business angel, un incubatore, un venture capital? Domanda avvelenata. Diciamo che oggi il mondo dei business angel in Italia non è così maturo come lo è nei mondi anglosassoni, no? Sì. Sono sempre di più le società che cercano capitali, sono sempre pochi i business angel e venture in Italia. Eppure ci sono tanti risparmi in Italia che spesso, come dire, sono non investiti e potrebbero invece aiutare a finanziare l'economia, o no? Assolutamente, motivo per il quale ci siamo quotati... beh, ovviamente capitali per la crescita, ma è portare educazione finanziaria. Si dice sempre che il fintech sia il sostituto della finanza tradizionale, in realtà secondo me sono perfettamente complementari. Il fintech porta innovazioni, ancora pochi capitali, nella finanza tradizionale c'è molta poca innovazione, ma tantissimi capitali, 1.500 miliardi di euro stanno seduti su conti correnti e le persone non sanno dove investirle. Quindi la nostra idea è stata quella di quotare la prima piattaforma, società fintech, su un mercato tradizionale, introdurre e da lì andare a creare educazione presso gli operatori, presso i promotori, presso le banche, per cercare sinergie in modo tale da coinvolgere anche gli investitori che non sanno dove andare a investire quei capitali. Tommaso, l'hai detto tu, però alla fine il piccolo risparmiatore che magari ha anche qualche gruzzoletto messo da parte o che giace sul conto corrente si fida un po' della banca e di chi li consiglia. Quindi sono un po' gli intermediari finanziari che tendono, magari anche scottati da quello che è successo negli anni precedenti, tendono magari a non consigliare questo tipo di investimenti. E allora voi come fate a passare invece dei messaggi positivi? Perché poi abbiamo visto che ci sono delle meravigliose start-up. Abbiamo visto Genenta, per esempio, che è stato un enorme caso di successo, e Genenta lavora, beh, è una startup del San Raffaele, lavora nel campo biomedico con delle eccellenze anche da un punto di vista di conoscenze e di competenze al suo interno. Abbiamo visto altre aziende, Sfera Agricola, che non rientra all'interno del vostro mondo, ma che comunque ha avuto accesso a capitali di rischio. Ecco, perché investire nelle startup? Differenziare il proprio portafoglio, ovviamente si parla di investimenti di medio-lungo periodo, non sono investimenti dove entro oggi e tra un anno dice, voglio disinvestire, come faccio a vendere le mie quote? Non ti dico che è Certo. impossibile, ma il gradino sotto. Bisogna andare a investire in questi strumenti che sul punto medio-lungo periodo possono anche garantire una diversificazione, una decorrelazione rispetto al mercato. E secondo me, ovviamente in proporzioni giuste rispetto al proprio portafoglio, si va anche a investire nell'economia reale. Oggi si parla spesso di economia reale, ma più che far investire, secondo me, i piccoli risparmiatori, bisogna anche andare a creare quei circoli virtuosi dove ci si è. Questi grandi istituti accompagnano queste startup PMI poi dopo allo step successivo. Faccio una raccolta di equity crowdfunding magari con da 500.000 euro, dopo 2-3 anni i numeri mi supportano e magari vengo accompagnato da una banca tramite un bond piuttosto che un IPO e vado a generare questo circolo virtuoso che va a rivalutare gli investimenti di chi per prima ha creduto. Quindi, secondo me, quello che manca non sono tanto i capitali, una startup medio buona, capitali li trova anche in Italia, ma è quello che viene dopo ed è quello che stiamo cercando di fare noi, di educare e creare un percorso che parte dal seed, passa per l'equity crowdfunding, magari con due round, e poi dopo, attraverso investitori istituzionali, il mercato tradizionale va a valorizzare la società. Chiariamo, Tommaso, che crowdfunding non fa da incubatore, quindi non dà poi risorse per far crescere l'azienda. L'azienda si deve rimboccare le maniche e deve andare per i fatti suoi. Assolutamente sì, noi non partecipiamo in alcuna maniera né nel capitale né nella governance della società. Quello che cerchiamo di fare noi è di creare un circolo virtuoso di raccolta di capitali e Climb&B quotata in borsa appunto il 25 di luglio, secondo me, e Wine Livery come da recente annuncio sono l'esempio lampante di raccolgo una piccola somma. Valorizzo quella somma all'interno della società, mi presento con i risultati che mi ero prefissato, vado a richiedere altri soldi, la gente si fida di me perché quando l'ho presentato il primo business plan avevo gli obiettivi per l'anno successivo e li ho conseguiti e poi dopo a un certo punto faccio lo salto di categoria e vado o faccio un exit, ma io credo abbastanza poco nelle exit in Italia nel senso anglosassone, arriva la Google che mi compra. Però può essere che vada a fare una IPO piuttosto che un altro evento di liquidità che mi permette di andare a poi dopo valorizzare la società e di conseguenza i soldi. Anche se in Italia le aziende tradizionali incominciano a soffrire i capitali investiti sul digitale senza competenze interne sufficienti a riportare il ritorno sull'investimento e incominciano a guardarsi in giro, il che potrebbe dare apertura delle exit interessanti, cioè delle acquisizioni da parte di aziende tradizionali nei confronti di startup. Una startup che vuole partecipare, cioè che vuole richiedere ottenere la partecipazione a un round di finanziamento su crowdfunding, che caratteristiche deve avere? Allora, innanzitutto non deve essere una startup appena nata. Noi richiediamo che ci sia almeno la validazione del modello di business, che abbia già emesso le prime fatture da parte del mercato, quindi assolutamente per almeno 200-300 mila euro. Poi è sempre giusto andare a differenziare società di servizi, quindi la classica app piuttosto che il delivery di turno, e la società che vende apparecchi biomedicali. Da una parte, ovviamente, se chi produce apparecchi biomedicali fatturasse, varrebbe già probabilmente centinaia di milioni. Dall'altra parte, se però sono una società di servizi e ancora non vado a validare il mio modello di business, sono molto debole, perché mi espongo alla domanda: perché te, per non Deliveroo o Amazon? Certo, quindi certo. Senza dubbio le metriche sono importanti. È importante anche avere una situazione contabile, adesso non dico solida, però andare a raccogliere un equity crowdfunding perché hai bisogno di soldi vuol dire un po' tappare dei buchi, no? Utilizzo, sì, i soldi degli altri per andare a tappare un buco fatto dal management attuale, e non è questo. L'equity crowdfunding, non bisogna pensare che i soldi di tanti, non è un prestito per colmare una lacuna, non è una benzina per andare più veloce, per crescere, corretto. Perfetto. Assolutamente. E quali sono, secondo te, per quello che voi vedete, le mancanze di questi ragazzi, di questi giovani imprenditori? Su che cosa sono impreparati, secondo te? Secondo me su che cosa sono preparati, divertentissimo. Io non ho mai visto una startup che si è presentata da noi e faceva il primo anno hanno un EBITDA di meno 300 mila, il secondo anno a zero e il terzo anno rendono tutti miliardari. E allora tu dici la curva è sempre quella. Io investirei nella società che mi dice, che mi fa vedere una crescita un po' più organica, non okay, quella che mi promette di diventare miliardario tra 4 anni. Bisogna avere, e stiamo imparando anche noi come CrowdFundMe a selezionare sempre meglio. C'è un bellissimo indice del professor Giudici del Politecnico di Milano, osservatorio su crowd investing, che va a delineare quello che è un NAV. Se avessi investito su tutte le società che hanno raccolto con l'equity crowdfunding, oggi avrei 129, vado a memoria. Se avessi investito soltanto quelle di CrowdFundMe, avrei 169. E quindi questo... avete fatto un'ottima selezione. Bravissimo, siamo più fortunati che bravi. Quanti siete a selezionare? Siamo in un team di 3 che seleziona, cresciuto nell'ultimo anno, e devo dire che è stato un ottimo lavoro, perché quello che dico sempre, non è importante quanti soldi raccogli. La gara è sul lungo periodo e non è una gara sul portale, è una gara su quanto siamo bravi a valorizzare gli investimenti dei nostri utenti, perché poi dopo un investitore soddisfatto che magari ha investito in ClimbnB 1000 euro, se ne ritrova dopo l'IPO 30 mila, soddisfatto andrà a investire parte di questi, certo, e quindi altri. Si genera un ritorno positivo. Se io invece ho un portafoglio di utenti, tutti questi utenti avevano un plafond di 10 mila, e questi 10 mila li hanno investiti e non hanno avuto nessun ritorno, allora uno in termini di portafoglio è finito, due in termini di portale non ho fatto una buona selezione di emittenti che hanno promesso almeno nel medio periodo di andare a valorizzare gli investimenti degli investitori, e quindi ne risente anche la credibilità e il brand del portale stesso. Tommaso, alcuni investitori e alcuni imprenditori si fanno qualche domanda sulla difficoltà poi di entrare all'interno di un'azienda che ha decine se non centinaia di soci, per metterli d'accordo, per recuperare tutte le quote, per fare la famosa exit di cui parlavamo prima, no? Ma è effettivamente così difficile poi fare un exit dopo un round di crowdfunding? No, ma te lo dico per esperienza su tre casi: CrowdFundMe che si è quotata, ClimbnB che si è quotata, IRFK che si è quotata. Non abbiamo mai avuto nessun parere ostativo da parte di nessun socio, che anzi, ma detto ciò, dov'è il detto che tutte le società nello statuto hanno il diritto di drag, e quindi di trascinamento dei soci, anche qualora si mettessero di traverso, però onestamente no. E oggi posso andare anche a rubricare i miei investimenti, vista la modifica del 100 ter del TUF, e quindi far sì che gli investitori neanche debbano passare dal notaio, detto che è un costo irrisorio una volta che c'è un exit, però se vado con DirectaSIM, il nostro fornitore che fa la rubricazione, con 20 euro addirittura vado a fare quello che prima facevo con centinaia di euro. Quindi alla fine è abbastanza sicuro e tranquillo riuscire comunque ad avere un round di funding e a gestire la governance di queste società. Sì, diciamo che era tantissimo un'obiezione che ci facevano qualche anno fa, soprattutto gli acceleratori e gli incubatori. No, non vogliamo entrare in società che hanno un azionariato diffuso, no, vogliamo avere delle preferenze rispetto agli investitori più piccoli. Ecco, sono tutte cose che noi, tra virgolette, abbiamo un po' superato e anche scansato da quello che era la quotidianità di CrowdFundMe, nel senso che se ti chiedevi perché non vuoi avere un azionariato diffuso, pur avendo categorie di quote che ti permettevano di assegnare quote senza diritto di voto, se ti dicevano no, ma noi vogliamo avere delle preferenze rispetto agli altri più piccoli, dicevamo scusami, perché entri nello stesso periodo di un altro investitore, tu sei grande e grosso, l'altro è piccolino e indifeso, perché tu vuoi addirittura delle preferenze migliori rispetto a quello che è l'altro investitore. E noi da questo punto di vista abbiamo deciso un po' di allontanarci da quello che era il mondo degli acceleratori e incubatori. Adesso secondo me le cose sono un po' cambiate, acceleratori e incubatori collaborano con piattaforme, ci sono delle raccolte in comune, è un po' cambiata l'aria, né? Come dicevo prima, se l'equity crowdfunding 2016 era vista un po' come l'ultima spiaggia per una startup per raccogliere capitali, oggi ci sono fior fior di acceleratori e incubatori che fanno uso di questo strumento per raccogliere capitali per i loro emittenti. Era Tommaso Valdissera, amministratore delegato di CrowdFundMe, ai microfoni di Radio Next, che ringraziamo. Tommaso, grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente dall'altra parte del vetro Andy Pendi, che ci ha permesso di fare questa meravigliosa puntata con Tommaso Valdissera, e ringraziamo ovviamente i nostri ascoltatori per essere stati con noi tutto questo tempo. Come sempre, questo e tutti gli altri argomenti trattati su Radio Next sono disponibili e approfondibili sul sito della Business School del Sole 24 Ore. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Modero.